Eccoci in diretta, ore 11 e qualche minuto. Dunque, siamo con un compagno del Carlo Sponseca. Ciao, buongiorno. Ciao, un saluto a tutti e a tutti. Ciao, allora. Dunque, parliamo ovviamente, insomma, della scomparsa di Hugo Chavez, morto ieri dopo una, insomma, lunga malattia che a fasi alterne lo ha anche tenuto così anche distante, insomma, dalla situazione politica, e comunque sempre assolutamente nello stesso tempo presente, insomma. Ora è chiaro che si tratta di fare i conti in ogni caso con questa figura importante, allo stesso tempo anche che sarà ingombrante, immagino, per il futuro del Venezuela, Nicolò, no? Eh sì, diciamo che ora si apre un periodo molto incerto, no? Ci saranno nuove elezioni. Chavez a dicembre, quando poco dopo, due mesi dell'ultima elezione, ci sono state a ottobre, lui l'ha stravinta ancora una volta, e a dicembre però ha comunicato che si sarebbe dovuto curare, per la prima volta ha detto che in caso di sua assenza, come purtroppo ieri è successo, il suo delfino, il candidato designato, sarebbe stato Nicolás Maduro, che in questi ultimi mesi, in cui Chavez era da dicembre appunto fuori dalla scena politica, prima a Cuba a curarsi, poi qualche giorno fa è tornato a Caracas, evidentemente per morire in Venezuela, perché ormai evidentemente le condizioni erano disperate. Maduro aveva già assunto il ruolo di presidente, però per la Costituzione venezuelana ovviamente bisogna andare a nuove elezioni, quindi entro un mese e mezzo ci saranno le nuove elezioni. Già ieri il ministro degli esteri ha detto che questo sarà il leader che ci aspetta. Nuove elezioni in cui c'è anche la possibilità che il risultato non sia favorevole a Maduro. A dispetto di quello che ci viene raccontato dai nostri giornali, in Venezuela si è sempre votato con tutti i crismi approvati dai vari osservatori e organizzazioni internazionali, quindi il risultato non è affatto condizionato dal potere politico, almeno non l'è stato fino ad oggi, e quindi c'è grande incertezza sul futuro del Venezuela, almeno per quanto riguarda il governo del paese. Eh sì, peraltro mi sembra che ci siano già le avvisaglie delle prime crepe, che si traducono poi in un rapporto non proprio facile con un settore dell'esercito, no? Guarda, io ho letto qualche articolo ieri sera quando ho visto la notizia, e stamattina, ora sinceramente non ho letto niente di questo. Probabilmente ci saranno, cioè Chavez era un membro dell'esercito, anche ovviamente dal 92, dopo il tentativo di colpo di Stato, era uscito dall'esercito, però c'era un rapporto di fedeltà maggiore verso di lui, anche durante il colpo di Stato dell'opposizione, della destra appoggiata dagli Stati Uniti. Nel 2002 parte dell'esercito era rimasto fedele a Chavez. Ieri ho visto il video del capo di Stato Maggiore che diceva che giurava fedeltà alla Costituzione bolivariana, al governo, e quindi almeno da quel punto di vista della dirigenza dell'esercito sembra esserci, anche perché quale potrebbe essere l'alternativa, se al male, cioè, conviene anche all'opposizione andare alle elezioni, perché si giocherebbe la possibilità di tornare al governo, quindi non so, mi sembra difficile che ci siano tentativi di forzare il piano politico. Chiaro, chiaro. Senti, insomma, una figura considerato di fatto l'artefice di un neosocialismo di impronta antiimperialista, soprattutto per via dei contrasti, insomma, con gli States, in particolare, insomma, con Bush Junior, e certo, insomma, che in quel paese siano stati fatti dei innegabili passi in avanti grazie all'impulso di politiche, di programmi politici di lotta, ad esempio, a una delle piaghe importanti dal punto di vista sociale, l'analfabetismo, la di lotta alla povertà e anche sul piano della redistribuzione, chiaramente tutto giocato sulla, sulla capacità, insomma, di aver intrapreso un programma di nazionalizzazione, no, delle aziende e delle risorse petrolifere del paese. Sì, cioè, io appunto poi quando si arriva alla fine di un ciclo uno ripensa sempre al momento in cui il ciclo era iniziato, nel 99, quando Chavez ha assunto la presidenza. Il Venezuela veniva da un periodo disastroso in cui nei 10 anni precedenti, come in tanti paesi dell'America Latina, le misure richieste dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale, avevano portato la povertà a livelli mostruosi. Addirittura nell'89, dopo l'aumento deciso dal governo dei prezzi della benzina, di generi alimentari, c'era stata una grande rivolta popolare repressa nel sangue, con più di 3.000 morti a Caracas, e quella era anche stata una delle ragioni per cui 2 anni dopo Chavez ha provato a destituire il presidente Carlos Andrés Pérez con un colpo di Stato. Quindi questo era il panorama in cui il venezuelano, ma anche latinoamericano, perché i vari governi neoliberisti in Argentina, in Brasile, in tutta l'America Latina, offrivano un panorama sconfortante per quanto riguardava un continente che era da poco uscito da una serie di dittature di cui conosciamo bene. In questi 15 anni, dal 99 al 2013, l'America Latina è cambiata completamente. Noi lo facciamo ogni lunedì quando raccontiamo quello che succede, abbiamo sempre evidenziato anche le contraddizioni di questo sviluppo, l'estrattivismo, il fatto che comunque non si mette in discussione un modello fondato sull'esportazione. Lo stesso Venezuela presenta queste contraddizioni, visto che dipende quasi esclusivamente dalla produzione di petrolio. Però soprattutto per quanto riguarda il Venezuela, più che altri paesi, qualche settimana fa commentavamo l'operato di Correa, che da poco è stato rieletto in Ecuador, soprattutto per quanto riguarda il Venezuela, questa redistribuzione, che comunque è una cosa fondamentale, perché quando si parla di accesso alla salute nei quartieri con migliaia di medici mandati nelle periferie dimenticate, totalmente abbandonate dai precedenti governi, quando si parla di debellamento dell'analfabetismo, quando si parla di centinaia di migliaia di case costruite negli ultimi 3 anni, facciamo la comparazione con il nostro paese, dove case popolari non ne vengono costruite da tantissimo tempo, si parla di cose che incidono nella vita materiale delle persone, quindi non si può far finta che non sia successo niente. E poi ci stanno anche delle sperimentazioni importantissime di autogestione, delle fabbriche, di consigli comunali, che sono delle assemblee che in molte parti del Venezuela amministrano la costruzione di piccole infrastrutture, le radio comunitarie, il sport, attività sociale e culturale nei quartieri. Quindi ci stanno tante cose importanti. Ovviamente ci stanno pure tante contraddizioni. Abbiamo commentato il giorno delle elezioni il piano socialista per i prossimi 7 anni di governo, che ora appunto non ci saranno perché si andrà a nuove elezioni. Ci sono delle contraddizioni tra dire che bisogna eliminare il consumismo, bisogna incidere meno sull'ambiente, e poi continuare a parlare di aumentare la produzione di automobili e di altri generi. Quindi evidentemente in Venezuela non è stato costruito il paradiso comunista, però è comunque sono dati questi passi importanti che sono stati fatti, anche perché in alcuni casi Chavez si è dimostrato pure più avanti dell'insieme, ovviamente non di tutto, dell'insieme della popolazione venezuelana. Nel 2007 c'era stato un tentativo di approfondire questo processo, con l'unico caso in cui Chavez ha perso delle elezioni per il referendum costituzionale, dove appunto la popolazione venezuelana ha bocciato una serie di misure che andavano ulteriormente verso la costruzione di uno Stato socialista. E poi io volevo far notare un'altra cosa che forse ci dimentichiamo, invece secondo me è importante. Tra l'altro ieri era il 60° anniversario della morte di un altro personaggio che ha lasciato, diciamo, la sua impronta nel Novecento, no? Il 5 marzo del 53 era la data della morte di Stalin. Il piccolo padre baffone, sì. Esatto. E pensavo un po' a fare, naturalmente, con le debite proporzioni di tempo di l'Unione Sovietica e Venezuela, due realtà totalmente diverse, però se pensiamo quando era morto Stalin, appunto, comunque tanta commozione in giro per il mondo, eccetera, poi col tempo sono emersi tutti i crimini di quel regime. Noi oggi commentiamo invece la morte di un personaggio e commentiamo anche le contraddizioni che ci stanno in Venezuela, perché in Venezuela era possibile parlare di queste contraddizioni, c'era una dialettica politica, ci sono dei confronti, c'è anche la possibilità per l'opposizione, purtroppo spesso l'ha fatto giocando sporco come nel colpo di Stato del 2, di esercitare la sua posizione, e questo forse è un passo in avanti che abbiamo fatto rispetto al Novecento. Cioè, purtroppo d'errori magari ce ne abbiamo tanti pure nella nostra storia, e oggi vediamo che questi errori si possono risolvere anche con la dialettica politica, e Chavez ci lascia comunque un paese che ha fatto tanti progressi, con i problemi che abbiamo e continueremo sempre a ricordare. Ci stanno pure le trasmissioni che abbiamo fatto in passato a testimoniarlo, chi volesse andare un po' anche a rivederci la storia del Venezuela degli ultimi anni, vada pure sul nostro sito comitatocarlosfonseca.noblogs.org e trova le vecchie trasmissioni. Però si va avanti, quindi ora vedremo quello che succederà. Naturalmente, purtroppo, in queste situazioni dove si punta molto sulla figura del leader, poi quando il leader viene a mancare si creano anche tanti problemi, no? Un po' la critica maggiore che facciamo al sistema venezuelano, però sono stati pure messi tanti semi positivi e speriamo che continuino a maturare. Assolutamente sì, no, hai fatto bene anche a ricordare questa coincidenza di tipo storico, insomma, soprattutto per poi la riflessione che ti ha suscitato, insomma, da condividere per molti versi. E no, appunto, non volendo esimerci anche noi, insomma, dall'individuare un po' gli aspetti contraddittori comunque in quel paese, così ne diciamo un paio, ma giusto per fare i conti poi con quello che sarà lo sviluppo futuro, prossimo venturo, in cui il paese in un modo o nell'altro, insomma, con queste problematiche deve farci i conti. E cioè, comunque si è sviluppato nel corso degli anni una corruzione assai vistosa, no? E questo, insomma, questo è abbastanza noto, e anche l'ascesa di una nuova borghesia che ha tratto anch'essa lauti guadagni, insomma, proprio dalle commercializzazioni delle risorse petrolifere, e poi questa impronta un po' assistenzialistica della gestione dei bisogni sociali, che abbiamo detto chiaramente rispetto alla lotta per la povertà in un paese in cui le condizioni di povertà erano assolutamente estreme, insomma, molte cose sono cambiate, però rimane questa impronta un po' assistenzialistica che certamente, insomma, non consente poi di produrre quella reale passaggio di emancipazione che dovrebbe esserci presso le classi popolari, no? D'altra parte, certo, però anche la mobilitazione suscitata dopo il colpo di Stato del 2002, beh, penso che quella, parlando di quella, in assoluto ci si può riferire ad essa come l'esempio attraverso il quale capire anche di quanta simpatia, di quanto consenso, certo, godesse, insomma, questo leader. Sì, sì, hai detto bene, quelle che fai sono tutte critiche puntuali, purtroppo quando un processo parte dall'alto, appunto, questi sono i lati negativi che uno si aspetta. C'è però pure qualcosa che si muove dal basso in Venezuela, spesso ci viene presentato tutto come un regali da parte del governo, eccetera. Invece questo governo ha anche, diciamo, fornito, aperto degli spazi a processi più autogestionari, che a noi ovviamente ci interessano di più e ci consideriamo più validi da sostenere. Ovviamente non è tutto così, molto del consenso di Chavez deriverà probabilmente pure da questo assistenzialismo, quindi questi sono aspetti problematici di questa esperienza. Saremo a vedere quello che succederà ora. Sicuramente c'è grande incertezza, però dobbiamo continuare a puntare, diciamo, sul proseguimento di questa esperienza. Di sicuro un ritorno delle destre sarebbe un colpo abbastanza pesante a tutto quello che si è costruito in questi 15 anni. Va bene, allora grazie Nicolò. Dai. E a presto. Ciao. Ciao. Un saluto a tutti e a tutti. Ciao.